you there? It's so far out here. Back, man, you're still there, man. This is on go away. Oye, okay, 10 va con 10 e va con la cena. Attenzione, 10. Perché è arriva che no, da me e sopra io. Attento, collega, se ascolti l'isola della Sardegna, Italia. C'è un weather por allá. Attento, mio hermano, se va a scusare l'isola della Sardegna, adelante per un comprendido. Oh, man. That's a paradise. You're up to your high elevation, right? Attenzione, se ascolti Italia, Nord Sardegna, che fa chiamata, cambio. La città di Sassari, Nord Sardegna, Italia, fa chiamata e si sintonizza in ascolto. Ok, sì, perché io qui también. Have a lot of noise back, a lot of noise here, though. Attento, Portugal. El micro. A ver, este de Puerto Rico y adelante, agarra el cambio ahí de Puerto Rico ahí. Ah, ok, aquí te estamos copiando Miami, Florida, Limón 714. Estoy perdiendo las condiciones que me mantengo aquí guapé. A ver, yo el micro, no voleo. Attenzione sul 10, c'è qualcuno? Chi è? Avanti. Avanti, chi è? Ebbene già. Alto. Dimmi già, avanti. Ma dove sei? Basso. Come basso? In via Milano sono. Ma basso di che cosa? Di segnale? Di radio. Di radio? Che cazzo è di Ducato? Ma cosa c'hai? Hola, guarda a vedere. Hola, no. No, sempre basso, sì. E sicuramente c'è il macchi di qua. È tutto volume, sta spingendo parecchio. Non lo so già. C'è qualcosa che non va. Anto. Dimmi già. Gianni. Eia. Dimmi, è tutto volume sta cosa. Prova a parlare. Tre prova. Vedi, forse ero io che avevo il volume abbassato, non mi sono reso conto. Chi cazzo, era a manetta già. E al buio ho toccato, sicuramente non mi sono reso conto che l'ho abbassato troppo. Guardi di Zieno che tu prendi voce. Com'è che sta arrivando? 9:20 Radio 5, sì. Cava. Già va bene. Che va a fa? Ma adesso mi sa che devo togliere l'antenna e devo salire sul tetto e mi pare che quella lì è buona, la metto qua. Quale? Quella che ti ho detto io, che c'era tu? No, quella che c'è l'altra casa. Aspetta un attimo. Che va a fa? Ma sta entrando gente, sì. Ehi, ti ascoltavo male perché... Aia. C'è un po' di splatter, capito? Aia. Mi fa male la gamba in una maniera allucinante. Ah, ecco care. Attenzione che sto ritornando alla veloce, mi ci salvi chi può. Da quando ti trasferisci? No, sono già lì io. Ah, già lì sì. Che ho fatto quel problema che c'è? Dai, piano piano, stiamo risolvendo tutto. Se piazzo lì già si salvi chi può, attacco visu cosa valvole, vedi? Ah, perché ce l'avevo? Io ce l'ho in linea la valvole. E qual è? Un BV131 modificato. BV131? Ah, 100 watt, dici? No, c'è una valvola diversa. E quanto dà? 150? Un bel. Magari tu. Non è che può dare 300 watt se da 100 watt in linea. No, sono stati cambiati alcuni componenti dentro. Se ti fanno salire sul tetto è tranquillo, A chi ti greghi io non faccio, lasciami mettere le cose a posto già. E che antenna metti tu? Non lo so, vediamo. Avrei trovato una mantova, avrei messo una mantova. Ma la vuoi prendere nuova? Chiappa, anche usata. Ma prendita come la mia, che va bene. Non metto quella. Io ti la levo, non sbaglio. Sì, sì. Non sai che ti bongo vista. Adesso vediamo, dai, quando metto le cose a posto. Oh, io già ti devo lasciare che lo fai la roba. Ce la risentiamo, dai. Sì, ciao, ciao. Andiamo bene. CQ canale 10 c'è qualcuno? Ehi, ciao Claudio. Cos'è, sì, che radio è questo? Ti sento strano, troppo vicino al microfono. No, ti ascolto bene, però non stare sempre toccando e faccio, vabbè, poi vai in banda laterale. Banda laterale per forza lo devi regolare. No, complimenti, ho visto che stai facendo delle cose spettacolari, soprattutto il Vaticano. Chi era questo del Vaticano? E che radio e che potenza? Perché di lì, cioè, il fatto della potenza è che sia un po' fuori banda, è un po' delicata la situazione. Ma cos'era, un radioamatore questo? Ma no, quella maggiore è gratuito, tra l'altro, perché con me fanno, va bene, ma non che non ti mandino qualche comunicazione, qualcosa per, diciamo, più che altro per le perdite di tempo. No, ritornando al discorso di questi di Marsala, io gli ho risposto, subito, appena me l'hanno mandato, gli ho risposto. Infatti adesso gli ne rimando una mail di ringraziamento. Io sono abbastanza educato, soprattutto hanno fatto un favore a mandarmi questa roba. Io gli ho risposto immediatamente, strano. Cluster DX si chiama. Ma se c'era qualcuno che forse ho messo portante e vuole parlare, avanti che vuole entrare su 10? Qualcuno simpatico. No, sono entrato adesso, poi c'è scritto, mi sono proprio sulla pagina, che mi dice poi alla fine login e c'è scritto username e password. Di lì ti metti un coso inventato, una password e o devi mettere il codice della che ti hanno dato. Aspetta un attimino di bianco, qualcuno vuole entrare? Chi è avanti? Arrivamo al segnale, 9+20, però non si capisce chi è avanti, se vuole entrare. Vabbè, dimmi una cosa, ma tu username cosa hai messo? Il suffisso, cioè il prefisso che ti hanno dato loro o uno qualsiasi? Poi l'ho fatto in diretta adesso e mi ha scritto è valido password, non ho capito per quale motivo, è invalidato username e password. Gli ho messo il mio coso, nome attivo di SWL e coso, e la password, però mi ha detto invalido username e password. Sì, no, quello era per i già registrati, io non ho registrato, adesso sono entrato nella pagina di registrazione, lo sto facendo in diretta. Sì, mi aspetto, ho quasi finito. Riprendi tu? Adesso prima che l'avevo già tutto indicato, non so se poi l'accetta. Aspetta, la password non me l'ha accettata perché ho messo dei numeri, delle lettere, e poi dovevo mettere dei simboli. Quel simbolo però qua non c'è, non ho compreso per quale motivo. Ma invece c'è strano che la password between 864 non deve essere più lunga di, deve essere minimo 8 caratteri e non più lunga di 64. Eppure gliel'ho messa giusta, strano che non me l'abbia accettata. Ma io già ce l'ho riuscito tempo fa. Sì, è una cosa rara, già è raro farlo in bande amatoriali, figurati farlo in 27, perché chi c'è che c'è? Reperto nessuno radioamatore, ce ne sono uno e due dei radioamatori, CB ancora meno, dentro il Vaticano è talmente limitata come estensione di superficie, è un quartiere, un isolato la città del Vaticano, c'è la cosa, la Basilica di San Pietro, Castel Sant'Angelo, di lì non ci saranno due o tre case. Io l'ho visto quel radioamatore, la sua stazione, però non so se abbia anche la manto, ho visto c'erano delle antenne filari, una metà direttiva mi sembra, per le UHF forse, UHF e basta. Infatti mi ha meravigliato, tu hai detto cavolo, hai fatto il Vaticano. Io lo ascoltavo molto forte, però lui lavorava su due frequenze ed era un po' complicato, poi tutto il mondo chiamava, io non sono riuscito, mi ha risposto per un attimo, semmai, e ho aspettato, alla fine ho chiamato un paio di volte, ma non sono riuscito a entrare, ha preferito fare collegamenti, forse ce l'aveva già la Sardegna, di lunghe distanze, di località dei canti più lontani, perché anche io molte volte quando chiamano i posti che ho già fatto, non sto a perdere tempo, preferisco fare un collegamento con uno nuovo, non con uno che ho già fatto, per dire Francia, Germania, Polonia, tutta quella roba lì, Spagna, li ho fatti decine di volte, che se frega. Ieri ero in diretta con Barcellona, 9 più 20 arrivava a bomba questo spagnolo in VHF, proprio 145 525, adesso forse una stazione qua, arrivava a fondo scala col preamplificatore 9 più 60, infatti è questa dove ne uscì, e c'aveva un'antenna neanche importante, con un Savelta Echo Master Plus attaccato a un Kenwood, una radio della Kenwood, posso dire va benissimo, ha fatto i complimenti per la modulazione mia, perché stavo usando il TS2000 in diretta, non tramite ponte, arrivava fortissimo, alla fine ho ricevuto una telefonata, ho dovuto interrompere, ma era in gamba questo qua, io avevo 50 watt, lui mi sembra che ne aveva 200 o una cosa del genere, però arrivava fortissimo, io le arrivavo più di 9. Ok, di nuovo a te il mic, guarda, immagino di sì, ti è presente che quando stavo parlando io, che tra l'altro mi ha detto solo stand by, S0 stand by, stava parlando una donna che parlava in inglese, non credo che era italiana questa, come secondo operatore, poi sono entrato sul coso con nominativo, ho visto che c'era una specie di casa antica, dai, diciamo d'epoca di lì, fai conto col del tetto del tegole, c'aveva queste antenne, un palazzone grande, non so esattamente dove sia, nel Vaticano, questo palazzone grande, una cosa storica, sicuramente c'erano queste antenne qua, c'era un'antenna che poteva essere una mantova, però se mi dici se era lui o no, sicuramente questo, lui si chiamava Piero, però lei adesso non me lo ricordo, e lui stava parlando, diciamo, stava, quella lì l'operatrice era lei, però la stazione, il nominativo era il suo, su cuoreset.com cerchi nominativo e ti appare, molti ce l'hanno, mettono anche le immagini della stazione, non tutti, però qualcuno la mette l'immagine, scrivi nominativo e ti appare, adesso non me lo ricordo il nominativo del Vaticano, mi ha colpito, però c'era il mondo, tutto il mondo stava chiamando, per cui lui a me ha irritato probabilmente perché faceva quelli intercontinentali, collegamenti per dire se chiamavano da Australia, dal Giappone, dal Canada, ha preferito fare quei collegamenti lì, tra l'altro è molto ambito, il Vaticano è uno dei canti più ambiti, perché c'è talmente pochissimi operatori, forse ce n'è uno solo, come San Marino ce ne sono due operatori, però chi ci va è uno soltanto, chi opera, e infatti quando ho parlato con San Marino sono stato molto contento, pur essendo molto vicino i canti, però non ci sono radioamatori, come che tu ti metti a collegare l'isola, ti posso dire, facciamo l'isola di Sant'Elena, vabbè la Sant'Elena è lontana, posso dire l'isola Maddalena, ma lì ci sono solo due radioamatori e nel mondo dicono cavolo, collegare in quel momento lì dove c'è quello che sta operando con la radio non è semplice, no? Perché uno può essere radioamatore anche nell'isola del Pacifico, ma se non opera cosa fai? E così è capitato con questo di San Marino, è stata una cosa, la Maddalena l'ho fatta, l'isola della Maddalena, non penso ce ne siano molti radioamatori, però l'ho fatta anche abbastanza bene, considerando che non siamo troppo lontani, perché quando sono molto vicini in 20-20, 40 metri non è semplice farsi sentire e soprattutto fare ascoltare. Ok, io il collegamento più lontano che ho fatto in vita mia l'ho fatto in 27 non mi ricordo se ero in banda laterale, forse no, è Mero, forse non mi ricordo esattamente, perché è capitato tanti anni fa alla Patagonia, e quello è stato il collegamento più lontano, era un faro a largo del Cile, un faro c'aveva 3 kW, fate il conto questo, una direttiva orientata verso l'Europa, siamo stati più di un'ora parlando, però è stata una bellissima, poi lui parlava in spagnolo, un po' ci riuscivamo a far capire, e lui viveva, era il guardiano del faro di questa, del sud della Patagonia, proprio quasi al polo sud, la terra del fuoco, non so se lo conosce, la parte bassa del Sud America. Allora, non parlare male, che non è detto che questo ci abbia internet, è poco probabile, sino a qualche anno fa, sino per dire a 10 anni fa, chi voleva la QSL, molti dovevano mandare i soldi per il francobollo, a qualcuno gli mandava direttamente il francobollo appresso, eccetera, non è detto che questo ne voglia approfittare, qualcuno ne approfitta, ma non è detto il caso di questo, magari questo ha capito li mandate alla via posta e li mandavi 2 euro per il francobollo o per la francatura, non lo so come funziona. Non è detto che questo lei volesse approfittare poi di quanto, di 2 euro, perché costa. E se no io lo faccio adesso, il programma lo fa in automatico, scrive UTC, cioè presente che adesso sono 2 ore di scarto, noi siamo 2 ore avanti rispetto a Greenwich perché abbiamo ancora un'ora legale, loro non aderiscono a quel coso, a quel trattato lì. Poi come cambia l'orario a fine ottobre, credo che cambi tra due, quanto ne abbiamo oggi? Questa settimana cambia l'orario, sabato e domenica cambia l'orario e ritorna un'ora in avanti siamo noi rispetto a loro. No, interessante. Io sono iscritto anche a IQSL, che automaticamente di lì ti arrivano tutti i contatti, però bisogna stare attenti perché qualcuno ne approfitta, ti mandano una QSL per dire, non so se ti è capitato, a me mi è capitato dall'Israele, questo ha mandato la QSL come che io avessi fatto il collegamento, ma a me non mi risultava, infatti io non gliel'ho confermato il collegamento, poi l'ho rifatto un'altra volta con un'altra persona, però lui mi aveva chiesto la conferma del collegamento, probabilmente lui stava facendo country, perché la Sardegna non è molto ambita come country, perché non ce ne sono molti radioamatori, secondo dove sono magari è anche un po' problematico collegati, e questo mi ha mandato la richiesta di QSL, ma io non l'ho mai collegato e non l'ho mai risposto. E qualcuno, può capitare anche a te, magari ti mandano come che tu hai collegato il Brasile, magari a te non ti risulta quell'orario lì, ho controllato perché tutti i collegamenti in automatico me li annoto, mi dà l'orario, la frequenza in cui l'ho fatto, che tipo di missione, se ero in banda laterale, se ero in FM, vabbè, se ero in FT8 eccetera, mi arrivano automatico, io poi scrivo il nominativo di una persona e il programma mi dice automaticamente a che ora l'ha collegato, in che giorno e che tipo di banda stavo utilizzando. Occhio che magari non ci sia qualche furbazione anche di lì su questo classe 1120, che magari qualcuno per farsi vedere bello che ha collegato la Sardegna magari dall'Antartide, magari ti manda la QSL e tu non l'hai mai collegato. Aspetta, lasciamo un attimo di bianco, facciamo passaggi più brevi, magari qualcuno vuole anche entrare, avanti su 10 chi vuole entrare, niente, riprendi tu, no è giusto, il rispetto ci deve essere da tutte le parti, purtroppo anche in bandiera radioamatoriali vedo gente, guarda l'altro giorno stavo sentendo, c'era il diploma disturbando apposta, fischiando, mettendo musica, cioè cose che neanche i 27 molte volte si sentono più, purtroppo ci sono anche le sezioni che si fanno dispetti tra di loro, infatti questo si è molto arrabbiato, ha detto, tanto lo sappiamo che siete voi, era una sezione pari antagonista, non lo so, io dico la radio deve essere per tutti e le regole e il rispetto deve essere sempre, non deve essere a momenti, a seconda dei piaceri, se ti piace quella stazione o quell'altra sezione, per cui purtroppo anche in banda radioamatoriali si vedono e si sentono anche queste cose e soprattutto adesso ci sono anche discorsi politici, perché ci sono sia i radioamatori che parlano di politica, ci sono i disturbatori che arrivano dalla Russia, forse anche qualcosa dall'Ucraina, ma l'Ucraina un po' di meno, ci sono dei segnali continui 24 ore su 24 e fanno propaganda politica contro la guerra, contro l'Ucraina, contro quello e contro quell'altro, e c'erano quelli contro i vaccini, un po' di tutto, per cui i vecchi radioamatori, quelli di 60 anni fa, 50 anni fa erano veramente radioamatori, adesso ce n'è un po' di tutti i gusti, dai, il mondo è bello perché è vario, come dice qualcuno, però male abbiamo tantissime opportunità, quando non ti piace quella frequenza e vedi il disturbo, però dispiace, tu stai facendo un collegamento e poi c'è il simpatico, si mette ad accordare, a fischiare e fare, o per dire, se ti occupano la frequenza c'è un diploma, una cosa, e si mettono vicino a te a disturbarti, di sblaccare, lo sai quante volte succede, non hanno neanche rispetto, c'era l'altro giorno questo, dice io sono qua un'ora che sto facendo collegamenti e tu stai venendo a disturbare, però ma si stavano attaccando malamente, poi questo voleva fare il filosofo, alla fine qualcuno l'ha fatto stare zitto, perché non puoi fare il prepotente in radio, la radio e la frequenza, come si chiama, le onde radio sono libere per tutti, se c'è qualcuno per l'educazione ti sposti, almeno lo sblatte, non gli dai fastidio, invece questi si stavano attaccando, spostati tu, ci sono prima io, qua, là, e basta, ti sposti e boh, ce n'è spazio per allargarti. Io avanti Claudio, avanti, purtroppo ci sono tutti gli orari, perché oggi magari stai parlando con l'Italia e siamo allo stesso orario, poi tra due ore si parlano con gli Stati Uniti e loro hanno 4 ore o 6 ore o 8 ore di differenza, cioè a tutte le ore del giorno e della notte succedono queste cose, non ti preoccupare, perché la maleducazione esiste purtroppo e secondo me sta anche aumentando per certi versi, e prima c'era un po' più di rispetto, adesso no. Quando stai facendo una chiamata che uno dice stand by, attendi e quello si continua a chiamare e a disturbare, e quelle volte succede tante volte. Beh, proprio ieri poi stavo parlando, sono venuti due radioamatori da me a trovare, molto, molto conosciuti tra l'altro, stavo parlando proprio di questo, del fatto dell'educazione. A me detto, bisogna stare un po' attenti, perché anche a 27 troppe volte si sentono delle parolacce, persone che fanno discorsi un po' scurrili, diciamo un po' volgari, che c'è tanta gente che ascolta e non è bello dire queste cose. Io cerco di essere abbastanza educato, raramente, forse non mi hai mai sentito, parolacce non ne dico mai, può capitare qualche fesseria magari a livello di battutina, ma c'è un linguaggio abbastanza, diciamo, pulito, non utilizzo parolacce durante la conversazione, ma un sacco di gente la utilizza. Quando devo fare delle prove chiedo sempre permesso, mi sposto in qualche altro canale un po' distante in modo da non arrecare disturbo, però nonostante questo è capitato più di una volta che io sto facendo delle prove, mi sono spostato e ma allora non mi fai entrare, ho detto ci siamo spostati proprio per non disturbare e ti lamenti pure, ma io sono mezz'ora che sto chiamando, sì ma noi stiamo facendo delle prove, molte volte capita purtroppo, il mondo è bello come dicono sempre perché è vario, è già due volte che l'ho detto, però accettiamo anche questo. Io cerco, ripeto, sempre educazione, quando vedo che le cose si sporcano cerco molte volte di mettere la pacella, di fare la pacella, l'ho fatto più di una volta, perché molte volte qualcuno è permaloso, qualcuno non accetta la battutina, l'ironia eccetera eccetera, però quando vedo che ci sono troppi problemi spengo tutto e me ne vado da un'altra parte. Di nuovo a te il mic, Claudio. Sì, avanti? Avanti che ha saluzzito, che ha chiamato, sentite uno, basta, sembrava una voce da oltre tomba. No, auguria, tu sei 9:20, quello era 9, S9 era il segnale, comunque non c'è problema, se qualcuno vuole entrare entri senza problemi, accettiamo chiunque, tanto non siamo nessuno, non siamo dei semplici operatori della 27. Cosa ti volevo dire? E la radio grande di tuo padre è arrivata? Sì, quando vuoi, non c'è problema, ci mancherebbe. No, tornando a noi il discorso, sai quanta gente mi manda messaggi che ci sta ascoltando, no? Tantissime persone, è capitato che l'altro giorno quando abbiamo avuto quella discussione stavamo parlando, non mi ricordo di che cosa, di antenne, qualcosa del genere, e lui mi ha detto sì ho sentito la discussione, non faccio né nome e cognome perché non mi piace, e mi ha detto abbiamo avuto una chiacchierata via WhatsApp, che ha ascoltato con interesse la cosa, mi ha chiesto anche delle cose, delle informazioni, cosa poteva fare, che tipo di cosa andava meglio eccetera eccetera. È interessante anche che qualcuno ascolta ogni tanto, poi ci sono i simpaticoni, quelli non mancheranno mai, che quando uno sta parlando magari mettono la portante, ci fischiano, fanno dei versi e cose del genere, ma in questo caso c'è un segnale talmente forte, per superare la terra deve avere un segnale superiore a 9+20, per cui deve andare su 9+30 per darti fastidio, sono comportante muta, non ti fa niente. Ok, basta, poi ricordiamoci sempre che ci sono anche persone al di sopra delle parti che ascoltano e registrano per eventuali problemi extra radiofonici, per cui bisogna stare attenti anche a quello che si dice, soprattutto quando si fanno certi commenti riferiti a organi ministeriali, organi statali eccetera eccetera, bisogna stare molto molto attenti, perché la radio sembra muta ma c'è tanta gente che ascolta e qualcuno può essere anche cattivo, nel senso cattivo che prenderà provvedimenti. Lo chiedo nuovo a te, Claudio. Sì, va bene, ognuno poi si fa le scelte che vuole, anche io ne ho fatto tante anche con Claudio, di scambi, di cose anche con te. Vendere non mi interessa vendere niente, forse se mi ricordi a memoria mia non ho venduto niente, dalla roba che c'ho dalle radio non ho venduto niente, ho sempre fatto scambio per dire a te ti interessa quella roba, a me mi interessa quella cosa che c'hai tu, abbiamo fatto, ti ricordi, per quell'altra radio famosa, e abbiamo fatto degli scambi alla pari, nel senso senza aggiungere soldi, se ti piaceva quello, a me mi piaceva l'altro, e così ho fatto una proposta anche io per quella radio di tuo babbo, visto che c'ho degli apparati che non lo sto utilizzando, è un peccato, sono delle bellissime radio vintage, non dico i modelli, ma l'ho riferito a tuo padre, non so se te l'ha detto, e per cui è sempre disponibile la situazione da parte mia. Adesso ieri tra l'altro ho sentito due persone abbastanza conosciute qua, gli amatori, abbiamo parlato anche del discorso di quella specie di mostra scambio che voglio fare io nel senso facendovi aiutare ad altre persone, perché da sola non la puoi fare. Adesso mi informo a livello comunale se ci danno uno spazio, penso di sì, perché anche una pubblicità poi ti fai patrocinare dal comune, dalla provincia, e facciamo la mostra scambio dedicata alle attività radio in tutti i sensi, dai baracchini se ne arrivano gli apparecchi professionali sia trasmettenti che riceventi, in modo da coinvolgere più persone possibile. Poi magari se Dio vorrà, se danno l'autorizzazione, si può anche ripetere questa idea che ho io grazie a Dio a livello organizzativo ho dell'esperienza, ho fatto tante cose, per cui posso anche mi so arrangiare, però ci vogliono delle persone affidabili e gente che abbia voglia di fare, perché a parole sono tutti bravi, poi infatti quelli che contano e qualcuno magari c'è qualcuno, io ho già parlato con qualcuno interessato, c'è più di uno anzi, anche fuori dalla città, fuori da Sassari e fuori dalla provincia, qualcuno ha parlato, e se riusciamo a coinvolgere un po' di gente viene anche una bella cosa. Poi magari qualcuno c'ha qualche radio che ha interesse, non ha più interesse da detenere, per dire mi interessa cambiare un vecchio vintage, che magari può interessare a qualcuno, oppure ho dei microfoni o delle valvole o dei potenziometri, dei componenti eccetera eccetera, ed è l'occasione giusta per farle conoscere queste, poi coinvolgere anche magari anche tipo a livello scolastico il giorno, per dire, dell'organizzazione della presentazione del primo giorno, magari si può invitare anche qualche istituto tecnico professionale, magari dice fai vedere una carrellata di quello che è la manifestazione, ed è diventata una cosa carina. Io sono sicuro che se si fa ci verrà un sacco di gente, naturalmente vuole bella pubblicizzata con molto anticipo programmata, non è che la fai alloggiare domani. Io ho detto sarebbe bello farla in due giorni, però è un po' complicato, se no al limite si fa in un'unica giornata, una domenica oppure un sabato, che sabato non lavora quasi nessuno, ed è anche una bella cosa. Di nuovo a te il mic. Cosa ti stavo dicendo? Un'altra cosa mi è sfuggita, aspetta, facciamo un attimino di bianco prima di tutto, avanti su 10, niente, non vuole entrare nessuno, no, ti stavo dicendo qualcos'altro, no, io ho diverse radio, tra cui Royce, che è un peccato perché è una radio nuovissima, conservata in modo impeccabile, con il suo microfono originale, addirittura originale americano la radio, perché è alimentata a 110, c'è il trasformatore esterno, l'ho dovuto acquistare dalla GBC, di quelli switch, di piccolini, per arrivare a 220, portarlo da 110 a 220, cioè da 220 a 110 viceversa, ed è un peccato, infatti tenere dentro l'armadio anche se ben conservato, chiuso, all'asciutto, è un peccato, infatti ho detto magari qualcuno che interessa a qualche scambio, e poi ne ho anche altre di radio, eventualmente, i ricevitori me li tengo, perché è una cosa che mi è sempre piaciuta, c'ho, vabbè, 7000, quello non si tocca, quello è insieme a quello Rode Schwarz, il top, che è quello che mi ci ho fatto vedere, un ricevitore da laboratorio professionale, da riferimento, e più c'ho una R3000, che me lo voglio tenere perché funziona anche a 12 volt, quello si può portare anche in macchina, funziona da 0 a 2300 mi sembra megahertz, a 2,3 c'ha anche tutti i tipi di emissioni, FM larga, stretta, bande laterali eccetera, e più c'ho una R2000, quello nuovo, lo stesso fiammante con la sua custodia MPL, bellissimo, però sono cose che me ne pentirei se le dessi via, anche se me le hanno già chieste più di una persona, però quelli me li preferisco tenere, però il base della Royce lo posso dare perché non lo sto utilizzando, c'ho anche altri due, però lo stesso il Multicom della Intec, che è quello, il più bel baracchino che ho, parliamo prestazionale a livello di qualità di cose, quello è il migliore che ho, il base della Intec, che è il Multicom, che c'ha tutto possibile e immaginabile, no, quello me lo tengo, come voglio tenere anche il Pace, anche se ho visto c'ha un'ottima valutazione, era una radio che mi ha fatto iniziare dalla 27, la prima radio seria che ha avuto, per cui me la tengo quella. Di nuovo a te il mic, naturalmente poi le cose io sono sempre di quello, vi sei piaciute, ti va bene, sei sicuro, sì, se c'è dubbio non le prende, io dico per tutto, anche per altre cose, non solo di radio, e per altri tipi di situazioni. la stessa cosa per me, se la prendo una cosa devo essere convinto, se non sono convinto non ne prendo, con i rischi se me li devo prendere, perché se la radio vedo che non è tanto sicura mi prendo il rischio, oppure dico no, non la voglio perché non mi piace, perché sono sicuro che questo problema non è rimediabile, oppure ci sarà, non è conveniente rimetterla a posto, però sono cosciente di quello che fa. Però poi quando uno va a sparlare, che è successo più di una volta, che mai, io non l'ho mai fatto, perché ripeto, con certe persone ho preferito non fare degli scambi, perché so che sono problematiche, poi per cui è meglio farlo con persone dove, per dire, questa volta ti può andare male, nel senso che ci perdi qualcosa, però altre volte ci hai guadagnato. Non faccio nome e cognome di persone perché non mi piace, però è capitato certe volte che io ho ricevuto delle cose che mi stavano bene con certi problemi e mi è andata, non dico bene, benino, e altre volte ho ricevuto delle cose superiori alle aspettative e me le hanno dato, come io ho dato delle altre cose che, per dire, in quel caso lì ci ha rimesso lui, nell'altro caso ci ho guadagnato io, o viceversa. Può succedere anche così, però quando c'è un buon rapporto con una persona di affidabile non esistono i problemi, e qualcuno c'è di queste persone, non sono tantissime. Con altre persone è meglio non avere rapporti, perché di domani mattina ce l'hai sotto casa e ti viene a dire ma come mai non funziona, mi ha dato un bidone, si parla male, preferisco non vendere, cioè vendere, non scambiare, non dico vendere, perché vendere, ripeto, non ho mai venduto niente qua, almeno in 27, su altri generi di cose sì, è capitato, non per fare affari, non mi interessava, di cose che non mi servivano, ho detto va, se lo vuoi dammi questo, se ti va bene, me l'hanno fatto, però parliamo di altri tipi di prodotti e basta. E ho fatto tantissimi scambi anche di recente, a me mi andava bene, a lui gli andava bene, anzi al primo momento ero titubante, ho detto magari gli sto dando una cosa troppo economica rispetto a quello che mi sta dando lui, invece è super contento, ha dato messaggi, fotografie, ha detto guarda cosa ho fatto, questa è la cosa tua, eccetera, e abbiamo un bellissimo rapporto. Quando io devo fare qualcosa, qualche affare con quella persona, lo farò sicuramente, di nuovo a te. E certo che sì, lo sai, la passione per le radio in tutti i sensi, dalle radio per le valvole vecchie, le vecchie radio per casa che si usavano, alle radiotrasmittenti, c'è un po' di tutto, sei sempre stato appassionato. Poi se è regalata la roba devi soltanto ringraziare la persona e non schifare niente. Molte volte mi è capitato, mi propongono delle cose, anche l'altro giorno mi hanno proposto delle cose, ho detto guarda, sinceramente apprezzo il regalo, però non saprei dove metterlo e che farlo, per cui me lo dai sì, però in quel caso lì, perché mi avevano proposto degli oggetti d'epoca, però ho detto guarda, sono contentissimo, siccome questa è una persona, siamo veramente in ottimissimi rapporti, ho detto guarda, sinceramente apprezzo il regalo, però ne ho un'altra uguale, non saprei, anzi l'ho dovuta tirare via perché non sapevo dove metterla, se me ne dai un'altra uguale, cioè, dovrei tenerla chiusa in un armadio e non saprei dove metterla. Per quello, così ho tante radio d'epoca, io adesso alla fine dovrò prendere la decisione, fare un blocco e fare, metterle tutte in vendita, tutte insieme a blocco, perché c'è il rischio che si rovinino, tra l'altro, ne terrò qualcuna per ricordo, però non posso tenerne 30-40 radio, alla fine non so dove metterle. Ciao Roberto. Ciao Luca, aspetta che c'è Luca che ha salutato, avanti Luca, compagnia mia e di Claudio D'Amuros, vai Luca. Ehi allora, ciao, scusa, ho saltato. Ciao Claudio, ciao Roberto, avanti Claudio, se mi ascolti. Ciao, facciamo tutto bene, dai, mi stavo cenando, ho già trovato un paio di pizzette. Insomma, ieri ho fatto il vaccino e non sto bene oggi. Adesso vediamo un po' cosa fare. Che radio è Luca questo? Questo è Superstar 3009. La momma, sta arrivando una scoppettata, quasi 9.40 con i picchi, 9.35. No, già vabbè, una bella dieta, bella bella. A me piace un sacco. Allora, quando l'ho comprata, vista dalle foto sembrava nuova, poi quando è arrivata era tutta graffiata. E allora, già nel doppio numero ho acquistato una radio rotta, quella questa, che mi ha dato una mascherina, mi ha venduto la mascherina e i coperchi, adesso nuova, nuova, nuova. No, no, ma c'è una bella radio potente. E l'altra cos'era quella che avevamo fatto lo scambio, Luca? Non mi ricordo più il telefono. Sì, sapete, ce l'ho riconservato dentro l'armadio. Ho fatto un giorno un solo attacco per farla andare un po'. quella era micidiale, quella modulazione era bellissima, una delle più belle qua, per non dire la più bella delle radio normali, parliamo, senza arrivare a radio più sofisticate, veramente bellissima modulazione. Di nuovo Claudio De Muro, salta il mic. Grazie, va bene, sì. No, io ho bello questo microfono, comunque lo metti, va bene, dai. Va bene, ma anche come si chiama? Il telefono va benissimo. So che quello lì ha un piccolo problema, lo sguido sale, non sale. In trasmissione, cioè ricezione è perfetto. In trasmissione che ha problemi, non so cosa sia, se il trimino da cambiare, perché lo sguido gliel'ho cambiato, ma l'aveva dato Gianni. Non so cosa l'abbia preso, dovrei farlo controllare. E che radio, mi scusa, che microfono è questo che stai usando, Luca? 3MP+4. Bella, bella forma. Io c'ho ancora, ti ricordi quello M43, che cos'è, 43 o M93, quello che mi avevi dato tu, Luca, che l'avevi modificato nel 2005, me l'hai dato quando siamo nel 2022, c'è sempre la stessa batteria ed è ancora a carica quella batteria, la schiaccio e c'è la luce che funziona. Capito, scusa Robert, perdonami, ripeti. Lo ricordi quell'M93 che mi avevi dato tu? Quella la voce batteria, vecchio, sono esaurita. Ma io non ho mai capito come mai quella batteria, tu schiacci la portante, il PTT, e si accende la luce bella piena, l'avevi modificato, usciva, ma avevate detto tutti che usciva molto bene ed è abbinato alla 48, mentre l'M600, la batteria si dura una settimana, ogni settimana devi cambiare la batteria. Sì, sì, è vero, vabbè, io qua ci ho messo la durazione, aspetta che... Ecco qua, era attaccato. No, ma chissà cosa, per la batteria probabilmente è da Guinness dei primati, non ne ho mai sentito cosa del genere. Lasciamo un secondino di bianco, poi facciamo entrare a Claudio Di Muro. Su 2 secondi Claudio. Di nuovo a te Claudio. Riprendo io. Ciao Claudio, sempre un piacere parlare, fare un bel corso, belle chiacchierate, è sempre piacevole. Vai, buon tutto, saluto a tutti in casa, buona cena, io ho già mangiato, adesso aspetto qualche minuto che mi vuole la partita. Alle 9 c'è la Juve contro il Benfica. Benfica, speriamo che riesca a fare qualche punto, se no è fuori dalla coppa. Vai Luca. Ciao Clara, salutoni, buona carica, buon tutto, alle prossime. Salutami a Babbo e già ci sentiamo, dai. Io adesso acceso per caso, perché molte volte arrivo a casa e non accendo neanche. Va bene, ok. Sono così, io ho cenato, adesso mangio la frutta e poi mi pongo a letto, mi lavo i denti e mi metto a letto. A canale 5 c'era la Juve, in chiaro, se ti interessa, vabbè, tu sei interista, mi pare, cos'è lui? Ah, già la guardo, no, la guardo per tirare. No, io quello no, non mi è mai stata simpatica la Juve, perché da bambino sempre dicevi vince sempre la Juve, e no, non me l'ha messo, però io tifo, quando giocano chiunque squadra, anche la più antipatica squadra di campionato, quando giocano fuori all'estero, io tifo, faccio, mi fa piacere la Juve, perché è l'unica squadra che ha esperienza in campo internazionale, le altre, il Milan magari 10 anni fa, 15 anni fa, però ormai no, non ce n'è, speriamo l'Inter che non ci faccia qualche sorpresa, che matematicamente li battano 3 punti, però è una partita talmente semplice come noi con la Macedonia e ci sono le sorprese, speriamo bene, perché voglio che il Barcellona si sieda e così la presunzione se la tengo una cosa in Spagna, non da noi. Un'altra cosa ti volevo dire, Luca, va bene, sono 20 gradi, vabbè, vatti a te. Padrone, il pallone è rotondo, cosa devi fare? Poi dipende da come è imposta la squadra, è così, non è una passeggiata. Hai abbassato 10 dB, sei sceso, comunque sempre 9,25, segnale fortissimo. Sì, ho abbassato. Ma va benissimo, la modulazione è bellissima perché non cambia e non è facile trovare il giusto abbinamento, perché magari qualcuno solleva un pochettino e poi vede la voce Padre Chifu tutta satura. E complimenti, perché non ha nessuna differenza tra basso e alto, non cambia niente. Ma facciamo vicini, ma anche con mezzo watt arrivo da te, basta avere un'antenna buona. No, io parlo come modulazione, molte volte quando attacchi qualcosa vicino per migliorare le prestazioni e deteriori la radio, invece nel caso tuo non è cambiato niente, è perfetto, assolutamente esente da disturbo. Ah sì, ho dovuto abbassare il watt, adesso non lo so quanto vuole d'ingresso, le 747, non lo so, devo indagare bene. Perché questi transistorizzati molte volte intermodulano quando sono vicini, fanno dei rientri, perché sono sempre tirati, perché chissà per quale motivo, per farsi vedere queste case costruttrici, dicono 100 watt e li stai tirando il collo al transistor, iniziano a saturare, a creare spurie, intermodulazioni, eccetera eccetera, per cui è sempre meglio tenerli magari anziché prenderne piena potenza, li tieni a tre quarti potenza e rende meglio la radio. Ma tutti hanno la mania della buzza, non è il caso tuo mi sembra, di nuovo a te Luca. Sì, ma usa mania della buzza, ma perché gli usa mania della buzza, ce l'ho così, ma niente, lo attacco quando mai c'è propagazione, ma niente di particolare. Lì l'ho comprato da un amico, ma ci batti a dirlo che l'ha venduto, è tutto per averlo, ma cosa mi interessa, un casino, capito? È un casotto. Sì. Sono di una gara, poi forse il vaccino mi ha messo a capo, No, non mi viene. No, io non commento Luca, già lo so, il mio parere, ognuno fa quello che vuole. No comment. Lo so, mica ti vado contro, ci mancherebbe, no, non è un problema, tranquillo. Ognuno fa quello che vuole della propria vita. A me non interessa di quello che fanno gli altri. Io l'ho dovuto fare perché sono stato obbligato, nel senso che attimo, dico una palla, non è obbligatorio ad essere o meno. Sono sincero, però a me serve per portare mia madre all'ospedale. Se no non mi fanno niente, stavolta abbiamo chiesto il green pass. Puoi fare il tampone tu prima di entrare. Come? Ci sono i tamponi, cioè col tampone. Io ho detto che ho smesso dei soldi. No, ma quelli in farmacia quanto costano? Costano 2 euro. Tra parentesi, col 31 di ottobre finisce tutto. Sì, però il discorso è questo, Robè. Che, come si dice? Vabbè, lui l'ho fatto, poi ognuno non era, ripeto, obbligatorio. Vabbè, ormai, poi Maria mi ha preso l'appuntamento, la mia ragazza, l'ho fatto. Poi se chi lo vuole fare, va, se l'ho fatto l'appuntamento, lo fanno subito. Dopo questo giorno, Roberto, anche l'elicottero ha atterrato, un bestione. L'ha fatto un po' di più, guarda, minchia. L'ho visto prima volta, noi ci è capitato, non l'anno scorso, quest'anno eravamo ancora nel 2022, verso aprile, abbiamo giocato con la squadra di lì che gioca il Deportivo, che gioca lì nel campo di manicomio, hanno fermato la partita, hanno avvisato, attenzione che sta arrivando l'elicottero, roba di più quello che ha fatto, tu fai conto, vabbè oggi sicuramente di più perché c'è, siamo in periodo diciamo asciutto anche noi, però di livello molte volte c'è il campo è bagnato, non si vede, ma tu devi vedere un bivalo che assada, a parte il rumore, infatti poi rimane almeno 5 minuti, deve far scaldare i motori prima di partire, aumenta piano piano la potenza e poi parte, è bellino perché è grande, l'hai visto, uno è convinto che sia piccolino ma è enorme. Vabbè comunque ognuno, questa cosa qua, ognuno è libero di fare ciò che vuole, roba, non è un problema, no. Comunque fa male il braccio. Appunto, ognuno dico fa quello che vuole, rischio e pericolo suo, dai, io non dico niente, chi se lo vuol fare se lo fa, chi non se lo vuol fare non se lo faccia, io le mie idee ce l'ho e me le tengo per me, poi non me ne ha fatto nulla di nessuno. Cosa ti volevo dire? Aspetta, lasciamo un secondino di bianco, ancora un paio di minuti, poi sacco io, avanti, chi vuole entrare su 10? Io ti saluto adesso, in questo momento, vado, come si dice, mangio un pezzo di frutta, mi lavo i denti e mi metto a letto, dai, prima non mi sento bene, alla prossima Roberto, buon proseguimento e buona cena. E allora io ho già mangiato, adesso ho mangiato presto oggi. Ok, ciao, ti saluto Luca, ci sentiamo presto penso. Ok, ciao ciao, alle prossime. Se ne andrai nelle bande radio amatoriali adesso, fai bene, fai un giretto, dai. Sì, li faccio sempre tutti, poi sto facendo un sacco di diplomi e voglio fare punteggio, per cui appena finisco l'officina sto abbandonando i country perché mi interessano questi punteggi, mi stanno dando una marea di diplomi, per cui per il momento faccio così, tanto l'inverno è lungo, poi ci sarà tempo per fare altre cose. Ok, di nuovo Luca, ciao ciao, anche io chiudo adesso, ciao. Sì, ciao Roberto, alla prossima, ciao ciao.